come all'ossigeno. Scrivo sti canzoni, poi mi sento più libero. Libero, sì, libero da sta realtà che si è pigliata tutta tranne libertà. Il film di me stesso sarebbe un thriller. In questo cazzo di film io resto l'unico killer. E sono solo un debuttante, ma faccio testi poesia come quelli che faceva Dante. Tu che cazzo ne sai che la capassamo le giudizie raggenti, ma sto fastrian. Com'era bello quando ero ragazzino, in tre monorota sopra quel motorino, pantaloni larghi e poi l'orecchino, la prima sigaretta, il passamo l'accendino. E sai con me quando vengo in questa situazione, gli racconto per zero fin finzione. Yeah, le storie musicane fanno cose buone. Non mi è rimasto niente, metto tutto cose in te canzone. E parola indie, mischiato con un suono, trasmettono qualcosa, forse pure un'emozione. Sono partito da questi basci, dicendo che è meglio la coppa terra, punti in alto e c'è che duca stella. Ma che non vuoi capire il problema che ci stanno, non ne puoi risolvere, ti appiccina da canna. La vita va pigliata come vena, ricorda della lieve, momento brutto e salva chi li bella. Poi tu cielo se ci grida veramente, basta che non si assente. Consigli e la gente parte sempre più sfunnare, no, per te perdere. E cose belle arrivano sempre lentamente. Ricordate una cosa sostanzialmente, nessuno è meglio di te, figurati sta gente. Bad times are coming and I